Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno, buongiorno a voi e bentornati. Siete pronti per una nuova puntata di Cuore e denari? Sono le 10:31. Voi nel frattempo ditemi cosa fate, dove siete, cosa pensate di organizzare per questa giornata e chissà mai per le vostre vacanze. 800 24 0024, non c'è Deborah, tenetemi compagnia. E partiamo subito con la rassegna stampa di denari. Siamo in estate, tempo di vacanze, quindi anche tempo inevitabilmente di spese, no? Sappiamo che tra chi può concedersi un viaggetto, molti lo faranno con un'attenzione particolare al budget, e quindi anche in vacanza sarà importante avere un metodo per conteggiare le proprie spese, quindi tenere tutti i conti sotto controllo. È una buona abitudine, Deborah ha dedicato a questo aspetto tante puntate, ne abbiamo parlato a Cuore Denari, è un'abitudine che varrebbe la pena di coltivare naturalmente anche nel corso del resto dell'anno, e proprio a questo proposito potrebbe fare al caso nostro un aiutante virtuale. Si chiama Saverio e ce lo presenta Giuseppe D'Agostino, che è vice direttore generale della Consob, che è l'autorità per la vigilanza dei mercati finanziari. Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Intanto mi piace molto anche il nome Saverio. Se avessi avuto un figlio maschio mi sarebbe piaciuto proprio chiamarlo così. Peccato che c'ha la S, ma com'è nato questo nome? Beh, Saverio ha in sé un mistero, perché saver vuol dire in inglese il risparmiatore, quindi è uno strumento per il risparmiatore o per colui che desidera risparmiare. Abbiamo usato però un nome italiano proprio perché rintendiamo in qualche modo esporlo al grande pubblico. Saverio il salvadanaro, no? Possiamo chiamarlo così? È giusto? Sì, già nel nome insita la finalità. Intendiamo noi come Consob molto impegnarci sul tema dell'educazione al risparmio, ma proprio per venire incontro a quelle che sono problematiche quotidiane di tutti i cittadini, abbiamo pensato a definire uno strumento virtuale, informatico, recuperabile e disponibile per tutti nel sito della Consob, che agevolasse nella gestione quotidiana delle risorse personali. E per far questo, ovviamente, dato un reddito disponibile, dato delle entrate monetarie, occorre tenere sotto controllo le spese correnti. Quindi ridurre gli sprechi e gestire più efficacemente le risorse. Assolutamente. Questa è un po' la possibilità che ci offre il nostro Saverio. Ecco, e quindi fondamentalmente attraverso il controllo delle spese quotidiane si genera formazione, si genera risparmio che poi da utilizzare per i consumi futuri piuttosto che per gli impegni di medio periodo, l'acquisto della casa, la formazione universitaria dei figli, piuttosto che un viaggio, come è stato detto all'inizio. Allora andiamo proprio a suggerire ai nostri ascoltatori come utilizzarlo, come si può fare, come funziona nel concreto. Si va sul vostro sito, sì, questo è il primo passo. Sì, si va sul nostro sito, si accede all'area di educazione finanziaria del sito Consob, si clicca in una sezione definita nozioni e strumenti e poi attraverso il menu di sinistra si va in risorse giochi e infine su budget planner. Vi è una vero e proprio manuale operativo molto facile e molto semplice, e poi vi è un vero e proprio programma che consente innanzitutto di definire quelle che sono le spese classiche programmate, spese. Facciamo qualche esempio. Casa, bollette, quindi classica spese per l'elettricità, il gas, il condominio, piuttosto che gli alimentari, le spese mediche. L'autotrasporto, le spese per i figli, il tempo libero. Ecco, poi il programma è molto flessibile, per cui consente anche di registrare e di programmare spese di diverso tipo, non so, il corso di vela piuttosto che il corso di lingua inglese e quant'altro. Una volta registrate le entrate e le spese programmate, si possono poi registrare i redditi e le spese che sono effettivamente conseguiti e sostenute, e quindi poi trarre attraverso un vero e proprio calcolatore e verificare la distanza tra quanto il cittadino, l'utente ha stabilito di voler spendere e quanto ha effettivamente speso. Questo consente di tenere sotto controllo il bilancio personale della famiglia e quindi di avere sempre sotto controllo l'utilizzo delle risorse proprie. Stavo pensando quindi, dottor D'Agostino, che Saverio, il salvadanaro, è a disposizione di tutti coloro che hanno una connessione internet e che vogliono gestire meglio, giusto, le loro risorse a disposizione e ridurre gli eventuali sprechi. Sì, noi stiamo facendo anche una campagna attraverso l'associazione dei consumatori, perché lo strumento che volesse uno strumento d'appoggio per i cittadini possa essere utilizzato e da tutti quanti proprio nella vita quotidiana. Non solo come simulatore, ma come vero e proprio registro delle spese personali e quindi avere un'idea di come si forma il risparmio in famiglia. È proprio uno strumento che parte dal concreto per educare alla sostenibilità del proprio stile di vita, del proprio modello di consumo. Non dimentichiamoci che attraverso questa pianificazione e l'utilizzo delle risorse finanziarie si impara anche a gestire quelli che saranno problemi che non di oggi ma di domani, dicevo prima, accantonare il risparmio per la pensione complementare piuttosto che per l'acquisto della casa o altri tipi di impegni. E quindi risponde ad un'esigenza di evitare la fragilità finanziaria delle famiglie o delle persone per scelte economiche che sono fatte oggi in maniera inconsapevole, non coerente, non corretta e quindi rendono non sostenibile uno stile di vita o un modello di consumo. Quindi il nostro amico Saverio, il salvadanaro, ci aiuta a diventare consumatori consapevoli. Ecco, questo è il punto centrale, cioè non c'è economia familiare che non passi attraverso l'educazione al consumo e il risparmio si genera attraverso un attento modello di consumo dato delle risorse proprie dal reddito disponibile, dal reddito personale. Quindi questo è assolutamente corretto e evita anche poi situazioni socialmente difficili. Quali l'iperindebitamento o situazioni appunto di non capacità di coprire bisogni elementari. Quindi è una risposta concreta che l'autorità che rappresento, la Consob, intende dare proprio in aiuto a tutte quelle persone che ancor prima di gestire gli investimenti si trovano a gestire problemi concreti di spesa corrente. Dottor D'Agostino, dovremmo pensare ad una versione anche per i nostri ragazzini che ricevono le prime paghette, fanno magari i primi lavoretti e quindi... Assolutamente si può semplificare. Noi anzi siamo molto disponibili a ricevere veramente suggerimenti di modifiche per renderlo più semplice o anche più sofisticato in connessione con quelle che sono esigenze concrete di diverse classi sociali piuttosto che diverse fasce generazionali, quindi questo è assolutamente... Allora, un suggerimento arriva subito da una segnalazione che vedo dalla regia, mi segnalano una telefonata di un ascoltatore che forse riusciamo a prendere al volo. Luigi, 800 24 00 24, il dottor D'Agostino diceva: abbiamo bisogno e accettiamo con piacere suggerimenti, indicazioni, richieste, e chissà se Luigi riusciamo a sentirlo, se no anticipo io brevemente la sua richiesta, anticiperò. Sì. Allora, mi segnalano dalla regia che Luigi scrive: il sito della Consob usa troppi inglesismi. In effetti lei ha subito specificato, quando io le ho fatto la battuta di Saverio, avrei chiamato così il mio figlio maschio. In realtà Saverio è in qualche modo ha italianizzato un concetto, no? Che invece è una parola inglese. Il nome Saverio è un nome italiano. Sì. Il nome italiano ha in sé questo mistero dell'origine, cioè che il termine Saver è un termine inglese, però abbiamo voluto evitare qualunque logo di questo simulatore, di questo strumento operativo che facesse riferimento ad inglesismi, proprio per evitare la trappola di creare uno strumento che vuole essere aperto a tutti, ma che poi attraverso il linguaggio tecnico piuttosto che inglese crei una barriera di accesso. Quindi ci siamo posti questo problema, però qualunque critica, osservazione che sia costruttiva per noi, ecco, è assolutamente benvenuta e siamo anzi contenti di ricevere. Grazie, allora ricordatevi anche dei ragazzini, che così gli forniamo questo strumento, questo saverio per ragazzini, in modo che possano imparare a gestire paghette e tutto quello che ricevono dai lavoretti, chissà mai, estivi. Grazie al dottor D'Agostino e complimenti. Grazie. Saluti, grazie, Saverio. Grazie. E a proposito di conti, non sono solo le voci legate alle vacanze a pesare sul bilancio delle famiglie in estate, anche la scuola continua un po' a farsi sentire, no? Noi la percepiamo come un ricordo lontano, ma non per tutti, perché ci sono le ripetizioni, perché deve recuperare uno o più materie a settembre, i libri di testo, bisogna iniziare a cercarli. E poi bisogna organizzare anche le settimane estive per i nostri ragazzi, quindi campi, centri estivi, ritiri sportivi, insomma, chi più ne ha più ne mette. Esperienze che, lo sappiamo, sono molto belle, fanno estate, aiutano i nostri ragazzi a crescere, rimangono impresse nella loro memoria. Anche noi ricordiamo, no, con i nostri amici, ti ricordi quell'estate in cui, però non sono esperienze indolore dal punto di vista economico, e chi deve fare i conti non se le può permettere, che cosa fa? L'alternativa è stare chiusi in casa, tenere il ragazzino chiuso in casa davanti alla televisione, o forse anche, non so, mandarlo giù nelle città che sono, si stanno un po' spopolando. Allora, per fortuna ci sono delle alternative, qualche alternativa c'è, a volte proprio parte dalle scuole, e che rimangono aperte anche in estate. Noi vi vogliamo raccontare di questa bella iniziativa, anzi ce la facciamo raccontare da un amico di Cuore ai Denari, Daniele Grassucci di scuola.net, che è tornato a trovarci. Ciao Daniele. Ciao Nicoletta, buongiorno, e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, scuole aperte d'estate. Specifichiamo, se ci fosse qualche bambino, qualche ragazzino che ci sta ascoltando, non vi preoccupate, non è che vi rimandano a scuola subito a rifare i compiti. È un progetto che ha un'altra finalità. Ce la vuoi raccontare, Daniele? Beh sì, è un progetto che nasce da un'idea abbastanza semplice, cioè l'idea è che le scuole in qualche modo come edifici, come strutture vengono sfruttate solamente per una piccola parte dell'anno, perché insomma si fa lezione solo la mattina e solamente per 9 mesi l'anno, per cui il razionale è perché non utilizzare queste strutture, certo, anche il pomeriggio, il sabato, la domenica oppure d'estate. Quindi in qualche modo il costo della struttura l'abbiamo già ammortizzato, dobbiamo in qualche modo erogare dei fondi per fare delle attività che in qualche modo permettano ai ragazzi di fare un qualcosa di diverso da quello che fanno normalmente nel corso dell'anno. Un po' la scuola aperta al territorio come centro di aggregazione, di interesse policulturale e polifunzionale. Allora, adesso noi ci fermiamo perché continuiamo a parlare di questo progetto. Intanto chiamateci se lo conoscete, ma chiamateci anche per dirci che cosa state, come avete organizzato l'estate ai vostri ragazzi, centri estivi, li mandate in oratorio, li mandate dai nonni. 800 24 00 24, ne parliamo tra poco ancora con Daniele Grassucci, ma intanto diamo subito la linea alle informazioni sul traffico e ritorniamo subito dopo insieme, tra poco. Cuore e Denari. Bentornati a Cuore Denari, vi stiamo raccontando un bel progetto, si chiama Scuole Aperte d'Estate. In linea con noi Daniele Grassucci di scuola.net. Daniele, quindi scuole aperte anche il pomeriggio, il sabato, nei giorni di vacanza a luglio, a settembre, magari anche di domenica, perché diventino dei centri aggregativi. Sì, assolutamente, questa è l'idea, e si è partiti in maniera sperimentale, ecco perché poi non vorrei neanche adesso che tutti gli ascoltatori ci sarà bene che non mandiamo più ragazzi al centro estivo, andiamo a scuola, chiaramente è una cosa che adesso è limitata sostanzialmente da circa 400 scuole di Milano, Roma, Palermo e Napoli, soprattutto nelle periferie, ecco perché vuole anche essere uno strumento soprattutto a tendere per combattere la dispersione scolastica, quindi per portare i ragazzi sempre, per far diventare la scuola un polo di interesse nel quale i ragazzi non solo studiano, apprendono, ma anche in qualche modo passano il loro tempo tempo, passano il loro tempo libero. E quindi ti dicevo, nasce in maniera sperimentale, quest'anno sono stati erogati 10 milioni di euro. Ecco, il peccato è stato che non tutti i 10 milioni di euro messi a bando sono stati utilizzati, ne sono stati richiesti solamente 6, per cui ecco, delle 700 scuole che dovevano essere inizialmente coinvolte, solo 400 hanno aderito a questo progetto. Questo è un po' un peccato, però anche è vero che è un progetto che è partito ad aprile, per cui ecco, era anche difficile per le scuole. Forse abbiamo bisogno di un po' di tempo, no? Per prendere il passo, speriamo nel prossimo anno di arrivare anno, a tutti gli istituti. Si vuole aumentare insomma il prossimo anno la portata del progetto, insomma verranno stanziati circa 100 milioni di euro, anzi 120 scusami per la precisione. Sì, e si vorranno coinvolgere quindi migliaia di scuole, non più centinaia, destinando ad ognuna circa 30.000 euro, che non sono tantissimi, però insomma meglio di niente. Un'ascoltatrice ci scrive che le sue bambine stanno andando in una fattoria didattica ed è un'esperienza molto bella. E a proposito di esperienze e di attività, che attività vengono proposte nel progetto Scuole Aperte? Si continua a fare a scuola nel modo tradizionale del termine, insomma si fanno un po' i compiti o qualcosa, immagino, di diverso, più coinvolgente, un pochino più vacanziero per i bambini? Sì, assolutamente. Ecco, si cerca di fare quello che la scuola non fa nel corso dell'anno, per cui ad esempio cinema, teatro, musica, ecco, produzione di autovisivi. Quindi da una parte ecco, tutta, si cerca di sviluppare quella che è la parte artistica e creativa dei ragazzi, ma poi anche si cercano di realizzare dei progetti, ad esempio di educazione finanziaria, di educazione alla legalità, di autoimprenditorialità, ecco, quindi dei temi che assolutamente in questa trasmissione ci stanno benissimo. Come si diceva prima, insomma anche l'educazione finanziaria è un tema da rivolgere ai ragazzi, perché ecco, spesso i ragazzi non sanno utilizzare bene il denaro, oppure non sanno ad esempio come si crea un'azienda, e oggi l'autoimprenditorialità invece è un'opportunità importante per i giovani. Ecco, se si vuole essere start-upper bisogna essere anche avere un po' di fondamenti di questo tipo. E poi ecco, non mancano le attività sportive, quindi ecco, anche questo è un tema che a scuola viene spesso trattato poco e che invece è importante, insomma, per i nostri ragazzi, soprattutto in una società che è sedentaria. Insomma, si cerca di completare la formazione. Senti, ma si studenti. Fa anche musica? Musica, sì, assolutamente. Ecco, tutto ciò che è creativo, teatro, musica, cinema, videomaking, viene sviluppato. Infatti, ecco, proprio ieri siamo stati a visitare una scuola di Milano, l'Istituto Comprensivo dell'Area Alpi, dove appunto è stato anche il ministro dell'istruzione Stefania Giannini, e là in quella scuola si svolgevano dei laboratori di teatro e di musica. Peraltro era una scuola attrezzata, e peraltro ecco, il giornalista abbiamo inviato mi ha detto anche che si stava bene da un punto di vista climatico, perché poi ad esempio per le scuole aperte d'estate c'è un problema logistico, ecco, tutte le scuole hanno delle adeguate condizioni climatiche per poter stare all'interno. Però ecco, direi che è un po' un sasso lanciato, ecco, una di quelle cose che se mai si prova a fare mai si riesce. Assolutamente. Senti, ma per garantire un'offerta di questo tipo immagino debba esserci la disponibilità del personale. Chi viene coinvolto? I docenti dell'istituto? O altri? Te lo dico perché questa domanda viene suggerita da un messaggio di WhatsApp di un ascoltatore che scrive: ma bisogna vedere gli stessi muri e le stesse facce anche d'estate, magari cambia il personale. Cambiano sì, anche perché i fondi, come dicevamo, non sono tantissimi. Ecco, stiamo parlando di 15.000 euro a scuola per la sperimentazione estiva, 30.000 euro invece per quella che sarà la sperimentazione nel corso dell'anno, quindi le aperture pomeridiane nel weekend piuttosto che la prossima estate. Quindi in realtà ci si dovrà affidare con questa somma soprattutto a magari alle associazioni, o comunque che quindi hanno dei rimborsi molto limitati, oppure magari utilizzano il personale che in parte ecco, lo fa anche per volontariato, per cui sostanzialmente non ai costi di mercato del personale. Ecco, pensiamo solo ai costi per mantenere aperta la struttura, per pagare gli straordinari al personale ATA. Però anche i professori in teoria potrebbero essere coinvolti e potrebbero essere incentivati. Un'ultima domanda, Daniele, c'è un elenco di tutti gli istituti che hanno aderito a questo progetto? Un genitore sentendo Cuore Denari può verificare se nella sua zona è aperta la scuola di riferimento e può ancora iscrivere il proprio figlio? Ma guarda, non esiste un elenco ufficiale, bisogna ecco, vedere da scuola a scuola, però tendenzialmente ecco, immagino che le scuole che hanno attivato questo tipo di progetti in qualche modo abbiano anche comunicato ai propri alunni, quindi se non c'è stata comunicazione molto probabilmente non è stato attivato, ma ti dicevo sono soprattutto, è un progetto che è partito in maniera sperimentale, quindi... Insomma facciamolo crescere. Facciamo, sì, assolutamente. Puntiamo però, su di ecco, lui. Il consiglio che posso dare ai genitori che ascoltano Cuore e Denaro è quello... di proporlo al prossimo consiglio d'istituto, perché ecco da qui a breve uscirà il bando per l'assegnazione dei 120 milioni per il prossimo anno e come diciamo appunto ci sono state anche delle risorse vacanti, quindi sicuramente c'è l'opportunità per attivare questi progetti. Grazie Daniele Grassucci per essere stato con noi, tra poco ci risentiremo nuovamente perché insomma la scuola è subito lì, Sì, ahimè. C'è tutto il tema dei libri, dei test d'ingresso, quanti soldi mamma mia, preparati Daniele, grazie. Grazie a voi, buone vacanze a tutti per chi le farà. Grazie, c'è chi a scuola ci passa l'estate quasi per piacere, c'è chi invece ci dovrà tornare per dovere prima degli altri, parliamo degli studenti sospesi in giudizio, insomma quelli che in parole semplici avranno gli esami a settembre, molti si saranno organizzati magari con compagni, con l'amico, si faranno dare una mano dal nonno, dallo zio bravo in matematica, per altri invece si faranno aiutare da dei professori e quindi prenderanno delle ripetizioni private che anche in questo caso costano e pesano sul bilancio familiare. Allora come farle rendere? In linea con noi è tornato a trovarci Matteo Salvo. Ciao Matteo. Ciao, buona giornata. Buona giornata e buono studio. Fondatore e direttore generale della scuola di apprendimento Mind Performance, primo istruttore certificato per insegnare le mappe mentali e campione di memoria. Allora, parlavamo con il dottor D'Agostino della Consob dell'importanza della consapevolezza anche per fare delle scelte finanziarie e quindi gestire anche i nostri risparmi. La stessa parola va bene anche per i nostri ragazzi, soprattutto quelli che sono stati rimandati, per vedere un po' il bicchiere mezzo pieno. Non tutti i mali vengono per nuocere, quindi una rimandatura a settembre potrebbe aiutare il ragazzo a capire che il metodo di studio che ha utilizzato non è stato efficiente. Certo, è uno specchio che ci mostra la realtà, quindi se mi sono impegnato tanto ma i voti non sono stati sufficienti, vuol dire che c'è qualcosa che non va nel metodo. Allo stesso modo, invece, se non mi sono impegnato, vuol dire che sto seguendo una strada che non mi porterà da nessuna parte. Quindi è fondamentale acquisire il giusto metodo e questo è un periodo estremamente utile per le persone che vogliono affrontare con strategia. Ecco, a proposito di strategia, vengo subito ai consigli perché poi abbiamo fra pochi minuti il nostro GR. Nel tuo libro Studiare è un gioco da ragazzi, che a me è piaciuto e che consiglio ai genitori di regalarlo ai loro figli, soprattutto non solo per quelli che hanno avuto degli esami di riparazione, tu spieghi quanto sia importante uscire dagli schemi di apprendimento classico per arrivare a studiare, per spiegare ad un compagno, ad una persona, non per essere interrogato, ma di diventare un po' docente, giusto? Esattamente, è una cosa che fa porre la mente su un piano completamente diverso. L'esempio che possiamo fare è quello di immaginare di dover spiegare a un mio compagno la lezione in modo tale che lui possa prendere il voto più alto possibile senza poter studiare, senza poter aprire il libro. Quindi lui dovrà prendere 10 senza studiare grazie a come io gli ho spiegato la lezione. Se lui riuscirà in quello, vuol dire che io l'ho compresa davvero bene. Quindi uscire dal sistema e dallo schema di studiare per imparare, ma studio per spiegare. Lo studio non finisce chiudendo il libro e avendo la sensazione di saperla, ma dopo che abbiamo verificato di essere in grado di spiegare quei concetti ad una persona che non sa niente. Matteo, altri due consigli che i genitori che ascoltano Cuore Denari passeranno ai loro figli magari alle prese con gli esami di riparazione e quindi si inizia a studiare ad agosto? Certo, allora una cosa fondamentale è fare una buona pianificazione di tutto quello che dovranno fare, Quindi mettersi lì e dire ho 30 esercizi da fare, quanto impiego per ogni esercizio, e sovrastimare il tempo di circa un 30%. Se poi finiscono prima, è tempo che hanno in più per divertirsi. Certo. In questo modo evita di mancare il tempo alla fine, di crescere l'affanno. E l'ultimo consiglio, che anche a noi sta mancando il tempo? È quello di studiare 40 minuti e poi fare una pausa di un quarto d'ora e andare avanti in cicli di questo tipo. 40 minuti di studio dove affrontano la materia più impegnativa, un quarto d'ora di pausa dove si divertono completamente per attivare l'energia fisica e l'energia mentale. E dopo ritornare per altri 40 minuti di nuovo sulla materia. Grazie a Matteo Salvo per essere stato con noi, studiare un gioco da ragazzi. Noi andiamo invece a sentire il nostro GR, ritorniamo subito dopo insieme con I colori del cuore, dedicato in questa puntata ai cuori brizzolati. A tra poco. Cuore e denari. Mio cuore, tu stai soffrendo, cosa posso fare per te? Faremo molto per i nostri cuori. Ci aiuta oggi la dottoressa Maria Frigerio, direttore del De Gasperis Cardio Center dell'ospedale Niguarda di Milano. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno agli ascoltatori. Faremo molto di più perché oggi torna il nostro appuntamento con i colori del cuore. Per l'ultima puntata abbiamo scelto non uno, bensì due colori, il bianco e il nero. Dottoressa Frigerio, i nostri amici si chiederanno perché, con tutti i colori a disposizione che l'estate ci mette a disposizione, abbiamo voluto scegliere proprio questi due. Beh, diciamo che non solo, non solo non è un per la sua fede juventina. No, prima di tutto io non sono juventina, ho un figlio juventino ma io non sono juventina, un po' perché proprio col caldo magari si tengono le persiane chiuse, quindi i colori si attenuano, poi il bianco e il nero sono i colori del vecchi film che la TV ci faceva passare più frequentemente d'estate che non nella programmazione delle altre stagioni. E poi il bianco e nero è il colore dei capelli sale pepe, e quindi parleremo di anziani, che spesso gli anziani d'estate sono un tema abbastanza caldo, dibattuto e ricorrente. E poi i colori, il bianco e il nero messi insieme fanno grigio, e si dice un po' che anche i capelli appunto diventano grigi, ma anche un po' il colore della monotonia, della noia, e poi anche delle persone che rimangono sole, anche se poi si parla di movimento delle pantere grigie, per dire che non tutti gli anziani sono tristi e solo in città, ma sono magari anche molto attivi e dinamici, soprattutto d'estate. Allora, 800 24 00 24, attivatevi, il nostro numero verde come sempre è a vostra disposizione. Abbiamo quindi scelto questi due colori per parlare di cuori brizzolati, quindi di invecchiamento e di cuore, perché è vero che la vita si allunga, ma per dare qualità di vita a quegli anni è necessario puntare sul cuore. Cuore inteso come organo, quindi motore della nostra vita, ma anche cuore inteso come relazioni, interessi, affetti. Dottoressa Frigerio, a questo aspetto abbiamo dedicato proprio un appuntamento dei colori del cuore, ma non si può parlare di cuore senza parlare anche di sentimenti, di relazioni. Certo, e soprattutto ricordiamo che la solitudine, l'isolamento sociale è un fattore di depressione che è molto dannoso per il cuore, e invece l'impegno nelle relazioni è sempre qualcosa che ci mantiene vivi, ci fa porre più attenzione a noi stessi in tutti i sensi, e quindi anche al nostro benessere, e quindi anche alla nostra salute. Allora, proviamo a pensare al cuore come a un vecchio amico, un amico di infanzia, e provate a pensare come è cambiato nel tempo. Dottoressa Frigerio, ci aiuta a esplorare un po' questa dimensione? Beh, diciamo che il cuore è un organo che subisce i danni del tempo, questo lo dobbiamo dire. Dobbiamo dire che è un organo anche che lavora molto. È un organo che ha una riserva inferiore a quella di altri. Pensiamo ai reni, pensiamo al fegato. Io lo dico perché, occupandomi anche di trapianto, mi rendo conto che mentre si utilizzano come donatori d'organi anche dei soggetti con oltre 60-70 anni, questo vale molto più facilmente per il rene e soprattutto per il fegato che non per il cuore. Poi subisce danni anche se noi non l'abbiamo trattato bene, per esempio se non abbiamo curato la pressione oppure se non abbiamo preso i farmaci raccomandati dopo che abbiamo già avuto qualche problemino cardiologico. Quindi diciamo che ci sono diverse ragioni per cui il cuore subisce l'invecchiamento. Questo non vuol dire che dobbiamo per forza ammalarci di cuore con, certo, il passare degli anni. Raccontateci però anche se con gli anni il vostro cuore si è intenerito, avete scoperto il piacere di commuovervi, di piangere, di aprirvi agli altri, di coltivare l'amicizia, la fiducia, oppure negli anni l'esperienza, la vita l'hanno indurito, raffreddato, stretto. 800 24 00 24. Dottoressa Frigerio, la parola cuore si presta a tante letture, ma anche la parola anziano, soprattutto oggi, lei l'ha anticipato, va ben specificata, perché oggi vogliamo anche coinvolgere i nostri ascoltatori e li invitiamo a dirci che cosa significa anziano. Conta l'età anagrafica, lo stato di salute psicofisico, oppure sono gli interessi, le capacità di stare, anche svolgere, no, un ruolo attivo nella società, a fare la differenza. Insomma, chi è l'anziano? Lo chiediamo ai nostri ascoltatori, ma inizio a chiedere a lei, dottoressa Frigerio, o meglio, quando si diventa anziani? Beh, diciamo, quando io ero un giovane medico, mi sono laureato in medicina molto presto, ho cominciato a frequentare gli ospedali qualche anno prima e molti pazienti mi sembravano anziani. Ma poi ho imparato che gli anziani erano quelli che avevano 10 anni di più del nostro primario. E tutto sommato è passato il tempo e più o meno ancora così, nel senso che l'età alla quale si diventa anziani sembra aumentare nel tempo. Diciamo, recentemente è stata introdotta una nuova classificazione che definisce giovani e anziani quelli tra i 65 e i 75 anni, mentre prima tout court gli ultra sessantenni erano definiti anziani. E inoltre definisce tardo adulti quelli tra i 55 e i 64 anni. Ora, io non so se preferisco essere definita giovane anziana o tardo adulta, ma forse credo che preferirei essere anziana o giovane anziana piuttosto che tardo adulta, che almeno da noi ricorda inevitabilmente il letardone. È vero, è vero. Intanto giriamo naturalmente questa domanda anche ai nostri ascoltatori. Chiamate il nostro numero verde per parlarci del vostro cuore, del cuore di chi vi sta a cuore, di chi vi sta accanto. Magari una persona è una tardo adulta, oppure è un anziano. Insomma, è una persona che ha... Dottoressa Frigerio, ci occupiamo degli anni a partire over 50, over 60, l'età anagrafica. Almeno over 65. Over 65. Raccontateci se la state accudendo, se avete dei dubbi, delle domande, se l'idea di affrontare l'estate per voi è un pensiero che vi in qualche modo vi preoccupa e perché. 800 24 0024. Abbiamo subito Beatrice che ci chiama da Carrara. Buongiorno Beatrice. Buongiorno. Senta, per me effettivamente l'estate è una grande preoccupazione, perché devo cambiare città, venire al mare, e al mare non è che mi sento al 100%. Io ho 80 anni e certo il mare dovrebbe fare anche bene, però forse abbassa anche la pressione, non lo so. Fatto sì che quando io mi alzo, che sono seduta, comincio a camminare. All'inizio vado abbastanza bene, poi comincio a sbandare un po' a destra e a sinistra, mi viene un gran calore nella testa, mi pare che il cuore un po' mi scoppi. Ecco, non so se da scriversi al cuore o altri fattori, non saprei, perché anche il mio medico non mi ha saputo consigliare nulla. Grazie Beatrice. Dottoressa Frigerio, che bella domanda, intanto sì, che ci dà tanti spunti anche di riflessione e di considerazione. L'estate, sì, la vacanza, il, sì, cuore che si comporta in modo diverso quando ci trasferiamo in un'altra località, il medico, sì, che tante volte non sa che pesci pigliare, ci dice: beh, signora è anziana, si accontenti. Dottoressa Frigerio. Beh, la prima cosa che devo dire è che io e la signora Beatrice temporaneamente siamo quasi vicine di casa, perché anch'io sono in vacanza non lontano da Carrara. Ecco, quindi è già la vicinanza con la dottoressa Frigerio ci solleva il cuore. La seconda cosa è da dire che non ho capito, la signora si trova in un posto quindi che non è la sua residenza abituale, e questo tante volte per una persona con il passare degli anni già è un fattore che un pochettino disturba, perché toglie dall'equilibrio della vita quotidiana che ha dei ritmi più rassicuranti. Sì. Poi c'è da capire se la signora è lì da sola o in compagnia di familiari o amici, e anche come si comporta se questo disturbo che lei denuncia ce l'ha solamente adesso come un disturbo stagionale, direi, più che non locale. Credo che sia più legato al clima che non al luogo, perché se la signora viene come me da Milano e ci sono 30 gradi a Milano, probabilmente avrebbe dei disturbi facilmente simili. Si tratta di capire se con questi disturbi si associano delle variazioni di pressione oppure no, se prende dei farmaci per la pressione che debbano essere regolati in qualche modo. Certo, se si rivolge a un medico che non è quello suo abituale, la conosce poco ed è più facile che sia che le dica che non possa dirle molto di più, che non si accontenti. Potrebbe essere utile rivolgersi al proprio medico magari prima di partire per le vacanze, come ho già detto, così come si fa tagliando dell'automobile facilmente a un controllo. La nostra ascoltatrice sottolineava, ma sono al mare, ma non so se il mare fa bene al cuore perché magari si abbassa la pressione. La scelta della località della vacanza può creare qualche problema a dei cuori tra virgolette fragili, dottoressa Frigerio? Ma io credo che sia più che altro una questione di temperature oppure di grandi altitudini. Ma certamente se c'è una temperatura abbastanza buona e se non si sta molte ore sotto al sole, allora direi che essere al mare o in città, probabilmente si sta meglio al mare, in collina o in una città grande, inquinata e afosa, meglio in collina, ma non è che la collina sia meglio del mare o viceversa. Quindi non ci sono delle attenzioni. Fattiamo questa cosa. Sì, quindi sì, non ci sono. Strettamente medico non c'è una differenza sostanziale. Breaking news. Ancora un aggiornamento sulla presa d'ostaggi nel nord della Francia, 130 km a nord-ovest di Parigi, alle porte di Rouen. Dunque un intervento delle teste di cuoio francese ha confermato pochi istanti fa che sono stati neutralizzati due uomini, due assalitori. Purtroppo prima che questo accadesse, e queste due persone hanno sicuramente, questa è la notizia che vi passiamo ora, ha avuto il tempo di uccidere il prete, il parroco di questa chiesa appunto nel nord della Francia. Nel frattempo l'intervento delle teste di cuoio, neutralizzati due uomini, ma dunque il prete, il parroco della chiesa che sarebbe appunto stato ucciso dai due assalitori. Ringraziamo naturalmente la redazione, restate con noi per ulteriori aggiornamenti. Dottoressa Frigerio, stiamo avendo un clima molto difficile che pesa sicuramente anche sul nostro cuore. Viviamo in questo stato di incertezza, di fibrillazione continua. Dottoressa. E dobbiamo avere un pensiero per tutte le persone in difficoltà o in crisi, e nello stesso tempo io credo non lasciarci influenzare troppo nel modificare il nostro stile di vita. Allora, noi continuiamo ad occuparci quindi del nostro cuore, di cuori brizzolati. 800 24 00 24, sappiamo che la maggior parte delle malattie di cuore che si sviluppa con l'avanzare dell'età, la dottoressa Frigerio ha detto che gli anni pesano sul nostro cuore, è correlata alle nostre abitudini di vita, per vedere il bicchiere un mezzo pieno, ogni tanto insomma dobbiamo provare anche a pensare positivo. Questo significa che possiamo fare molto per proteggere il nostro cuore e per provare a garantirgli una vecchiaia serena. Non è mai troppo tardi, dottoressa Frigerio, era il titolo di un programma di successo, e la vacanza potrebbe essere anche una buona occasione. Sì, però bisogna anche dire due cose. Uno, che non è mai troppo tardi per diventare più saggi e più amici di noi stessi. Non è sempre possibile diventare degli sportivi se si è sempre stati sedentari, e soprattutto se anche si vuole fare, è bene farlo. Se non degli sportivi, almeno delle persone che svolgono un'attività fisica regolare, ma bisogna farlo con gradualità. Gli exploit estivi non sono raccomandabili. Partire per il cammino di Santiago senza essere allenati a camminare non è una buona idea. Allora parliamo comunque del cuore fragile. Ci sono delle patologie che con l'avanzare dell'età sono più frequenti, vogliamo ricordarle e dare ai nostri ascoltatori tutte le indicazioni necessarie per riconoscere eventuali segnali e sintomi che talvolta sono trascurati proprio perché non conosciuti. Beh, questo sì, e poi vogliamo dire anche un'altra cosa, che l'avere o non l'avere queste condizioni deve anche modificare il nostro approccio all'estate. Prendiamo una patologia molto comune dell'anziano, che è lo scompenso cardiaco, che è la condizione nella quale il nostro cuore fa fatica a far circolare il sangue in maniera sufficiente a ossigenare tutto il nostro corpo. Questa condizione si caratterizza molto facilmente con dell'accumulo di liquidi, per esempio a livello delle caviglie, a livello dei polmoni, a livello del fegato. A livello delle caviglie noi ci vediamo le gambe gonfie, a livello dei polmoni ci fa venire l'affanno, a livello del fegato ci sentiamo magari più pieni dopo aver mangiato poco. E quindi dobbiamo stare attenti a questi segni, anche perché sono molto poco specifici e soprattutto se compaiono d'estate possiamo dire che appunto beh, l'estate fa venire le gambe, certo, manca fiato perché l'aria affosa e via così. E allora bisogna invece essere attenti e, una volta che sappiamo di avere queste condizioni, interpretare con saggezza anche tutte le raccomandazioni che ci danno per combattere il caldo estivo, per esempio, perché se è vero che quando fa caldo d'estate subiamo di più, perdiamo più liquidi e quindi dobbiamo bere di più, se abbiamo lo scompenso di cuore dobbiamo però bere con misura, regolandoci in base al nostro peso, perché bere in eccesso può portarci appunto a sovraccaricarci di quei liquidi che non riusciamo a smaltire e quindi determinare uno scompenso. Perciò, come dire, i consigli per l'estate che compaiono sul giornale e che probabilmente il vostro Alessandro Milan annovera facilmente nel premio La Carta Corta, devono essere personalizzati se abbiamo una qualche patologia cardiaca. Non possono avere gli stessi consigli per tutti allo stesso modo, non siamo tutti uguali. Allora, non mandate il nonnino al supermercato per rinfrescarsi. Cercate di raccogliere tutte le informazioni e stategli a fianco. Vilma da Udine e poi Angela da Napoli. Vilma, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, complimenti per la trasmissione. Grazie Vilma. Grazie di poter porvi la domanda. Siamo qua. Mi chiamo riguardante mio marito che ha 76 anni e una grande passione per andare in montagna. Ci sono delle camminate dove ci impegniamo 2-3 ore di un dislivello 600-700 metri. Io vorrei chiedere quanto consigliabile è uno sforzo così prolungato per una persona della sua età. Lui è magro, ha un po' il colesterolo alto, sì, non prende nessuna medicina, in buona forma ed è allenato. Va in piscina, noi facciamo delle camminate anche quotidiane con un po' di dislivello, non sempre, ma cerchiamo sempre di più. E io tante volte mi preoccupo per l'età, riguardante l'età. Grazie Vilma. Dottoressa Frigerio, quanto amore e attenzione c'è in questa telefonata? Tanto. Ce n'è molta, bello. C'è l'amore per il proprio uomo e c'è anche, credo, una passione condivisa per la montagna, per la vita all'aria aperta, che io non posso che apprezzare e condividere. Se questo signore si è mantenuto in grado di fare camminate in montagna in salita a 76 anni, dobbiamo pensare che molte persone vivono in montagna e invecchiano in montagna e fanno i loro camminate, i loro dislivelli. Io credo che questa persona, se è allenata, se è abituata e se magari tutto l'anno fa poca strada e quando va in vacanza non fa subito lo strappo di 800 metri di dislivello in salita, ma comincia magari con 200-300, può mantenere l'attività che gli dà soddisfazione, soprattutto magari se non va da solo, direi. Certo. Dottoressa Frigerio, per una persona allenata ma un po' avanti con gli anni, quali sono dei segnali che non vanno trascurati, che si presentano durante lo svolgimento di un'attività sportiva o di un'attività fisica abbastanza abituale, come nel caso del marito di Vilma? Ecco, giusto, questa è una buona domanda, grazie per avermela fatta, ed è quella di vedere che lo sforzo che l'anno prima, il mese prima, la settimana prima facevo in scioltezza comincia a costarmi più fatica. La persona allenata e la persona determinata, la persona attiva, tende quasi inconsciamente a trovare dei trucchi per arrivare in fondo e fare lo stesso quello che vuole fare, gli interessa di fare. E quindi magari farà delle pause un po' più lunghe, un po' più frequenti. E questo va bene per arrivare in fondo, ma va segnalato al medico perché può essere la spia che c'è qualche cosa che non va, che deve essere corretto. Oppure se viene un dolore al petto, per esempio, durante uno sforzo, mi fermo e mi passa, questo può essere l'inizio del segno d'allarme dell'angina, insomma il sintomo tipo dell'angina, e quindi non va sottovalutato. Quindi direi fare attenzione che non ci siano dei disturbi nuovi che prima non avevamo, o che non ci sia una riduzione della nostra capacità fisica per cui ci facciamo più fatica rispetto al nostro abituale. Anche la fatica è qualcosa di cui dobbiamo tener conto. Angela ci chiama da Napoli. Buongiorno Angela, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a voi. Grazie, vi seguo sempre perché io cucio. Che brava. E dunque sono nel mio laboratorio e mi fate passare la mattinata in maniera meravigliosa. Grazie Angela. Grazie per tutto. Volevo dire alla dottoressa, per favore, ho avuto un episodio strano. L'anno passato andai in montagna, era un periodo veramente di grande stanchezza e stress. È schizzata la pressione in maniera proprio esagerata. Sono andata al dottore, mi ha dato dei diuretici, si è abbassata la pressione, poi sono tornata a casa, ho fatto tutti gli accertamenti, ho misurato ancora per un periodo la mia pressione, tutto a posto. Non so spiegarmi come mai questa cosa. Grazie ho paura Angela. Adesso di andare in montagna. Allora, grazie Angela. Dottoressa Frigeri, una rondine non fa primavera oppure un'avvisaglia che va considerata? Dunque, può darsi che ci fosse una situazione di stress, può darsi che ci fosse un cambiamento di clima, può darsi anche che ci fosse un cambiamento alimentare, perché magari quando uno è a casa propria, in città o nel paese dove abita, cucina in un certo modo, se va in vacanza, va in vacanza in albergo, in un posto dove cucinano diversamente, magari qualcosa di più saporito, più decisamente salato, ci fa aumentare la pressione. Le ragioni possono essere diverse. E quindi diciamo che se la signora desidera tornare in montagna, dovrà fare attenzione a queste cose e magari già prepararsi a tenersi sotto controllo in misura maggiore. Ma quindi agli ascoltatori che si ritrovano un po' descritti nel caso di Angela e quindi che hanno avuto magari degli episodi in cui la pressione è schizzata alle stelle e poi con l'intervento del medico, con una terapia, si è stabilizzata, prima di partire è bene comunque controllare la pressione, misurarla, parlarne con il medico. Quali sono le indicazioni e le attenzioni che dobbiamo seguire, dottoressa Frigerio? Sicuramente sì, se si è già ipertesi anche quando si è a casa propria. Se invece è successo episodicamente in un altro posto e una volta rientrati a casa abbiamo fatto diversi accertamenti che non hanno dimostrato che c'è una malattia sottostante che può scatenare queste puntate ipertensive, come si chiama, io ritengo improbabile che la variazione di altitudine, che non credo sia andata sull'Himalaya la signora, nemmeno in cima al Monte Bianco, abbia determinato uno sbalzo di pressione così significativo. Ci può essere state diverse altre cose, tra cui lo stress, l'alimentazione, fattori del tutto casuali, e quindi credo che poi è quando è là la signora o l'altro, certo, o chiunque, che deve tenersi sotto controllo. Allora, adesso dobbiamo lasciare la linea e lo facciamo con piacere ai mercati. Abbiamo parlato con la dottoressa Frigerio di Scompenso, ma parleremo di altre due malattie che minacciano in modo serio la salute del cuore dell'anziano. Sono la fibrillazione atriale e l'ictus, che sono due condizioni tra loro correlate, la cui prevalenza aumenta con l'aumentare dell'età. Ma curando la fibrillazione atriale, dopo averne cercato le cause, si può evitare l'ictus, evento molto drammatico che lascia spesso invalidità gravi e permanenti. Se avete ricevuto una diagnosi di fibrillazione atriale, se volete conoscere più da vicino questa aritmia, che è una aritmia molto diffusa ma spesso sottovalutata, restate con noi. Parleremo anche degli anziani più fragili che restano in vacanza da sola, per dare tutti i consigli, le indicazioni, i servizi che oggi sono disponibili, mercati e poi di nuovo insieme. 800 24 00 24 per le vostre domande alla dottoressa Frigerio, per ricevere un consiglio, un'indicazione, una precisazione. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Siamo tornati di nuovo insieme in questa puntata in cui parliamo di cuori brizzolati, del cuore delle persone over 65 anni. Abbiamo pensato a loro, abbiamo pensato di dedicare a loro questa puntata del nostro progetto I colori del cuore. In linea con noi abbiamo la dottoressa Maria Frigerio. Dottoressa Frigerio, pronta a rispondere a tutte le domande, che sono davvero tante, degli ascoltatori che portano il loro cuore in vacanza ma hanno qualche dubbio, vogliono raccontarci dei segnali, dei campanelli d'allarme, dei sintomi magari sfumati, e vogliono capire se sono delle avvisaglie che manda il loro cuore per segnalare un disagio, un affaticamento. 800 24 00 24. Ma dottoressa Frigerio, prima dei mercati avevo promesso che avremmo parlato di due patologie che la cui incidenza aumenta con l'avanzare dell'età. Sono due patologie correlate. La buona notizia è che curando una si può evitare l'altra. Partiamo dalla fibrillazione atriale. È un disordine del ritmo molto diffuso, frequente negli anziani, ma di cui spesso non c'è piena consapevolezza. Sì, diciamo che anche la fibrillazione atriale può essere trascurata se sentiamo le palpitazioni per certi periodi, ma tutto sommato non ci facciamo molto caso. In realtà, se è rapida, se è molto accelerata, quasi tutti se ne accorgono, così pure se una persona è abituata a sentire il proprio polso e a sentirlo regolare, se ne accorge, perché lo sentirà irregolare. L'intervallo di tempo tra un battito e l'altro è del tutto casuale. E questo succede perché il cuore, che ha dentro di sé un impiantino elettrico automatico autoricaricante e autofunzionante, autoregolato, perde il controllo della parte superiore di questo impianto elettrico, che è quello a livello degli atri, cioè delle camere che ricevono il sangue dalle grandi vene. Si desincronizza il ritmo e quindi passa ai ventricoli, che sono le camere che pompano quando ci riesce, e quindi a intervalli variabili che possono essere molto corti ma anche più lunghi. E questa aritmia determina un ristagno di sangue soprattutto nelle camere superiori, che sono gli atri, che sono più facilmente dilatate negli anziani, soprattutto se ipertesi o se hanno avuto un infarto, e quindi è per questo che è più facile nell'anziano che non nel giovane che si formi all'interno di queste camere un trombo, un coagulo, che può essere abbastanza fresco e abbastanza antipatico da lasciar perdere dei pezzi, lasciar uscire dei pezzi che hanno la cattiva abitudine di andare su dritti per le arterie del collo e infilarsi in qualche arteria cerebrale, determinando così l'ictus. La fibrillazione atriale è la causa più frequente di ictus nelle persone sopra i 60-65 anni. E su questo argomento trovate anche notizie e interviste sul nostro sito I colori del cuore, che vi invito a consultare per avere maggiori informazioni. Non so, Nicoletta, se preferisce dare più spazio alle domande o approfondire ancora. Sì, volevo solamente arriviamo subito ad Emilio da Monza. Possiamo dire però che la fibrillazione atriale, dottoressa Frigerio, va diagnosticata, prima si diagnostica, prima si interviene, sì. E quindi ecco, curandolo con una terapia adeguata si evita anche il rischio che è correlato alla fibrillazione atriale, come lei ha sottolineato, che è quello di incorrere nell'ictus. Certo, nella maggior parte dei pazienti, direi in quasi tutti gli anziani con fibrillazione atriale, è raccomandata una terapia anticoagulante che tende a mantenere il sangue fluido e quindi a impedire appunto che si formino i coaguli, che poi possono lasciare staccare dei trombi che vanno a embolizzarsi prevalentemente appunto a livello del cervello. Esistono anticoagulanti vecchi e nuovi. Quelli vecchi tradizionali sono principalmente il warfarin, che necessita dei controlli di laboratorio abbastanza serrati, abbastanza ravvicinati, e ricordiamoci magari di farli anche se andiamo per lunghe vacanze, anche nel nostro luogo di vacanza, in maniera da tenere sotto controllo, certo, questa terapia, perché questo farmaco è un farmaco molto efficace, ma se non è dosato in maniera appropriata rischiamo o di avere una terapia non abbastanza forte, oppure, o di avere una terapia troppo forte e quindi andare incontro a dei sanguinamenti. Quindi il problema di questo farmaco è la necessità di titolare la dose e anche l'interferenza dell'efficacia del farmaco con altri farmaci e anche alcuni stili alimentari. Esistono invece poi una nuova classe di anticoagulanti, che sono degli inibitori diretti dei fattori di coagulazione, e sono generalmente più pratici da utilizzare, perché la dose viene scelta in base alle caratteristiche della persona, l'età, la taglia, la presenza o meno di insufficienza renale o il rischio di sanguinamento, e poi dopo non c'è bisogno di fare dei controlli così ravvicinati come nel caso del Coumadino, del Warfarin analoghi. Questi farmaci, essendo più nuovi, sono anche naturalmente più costosi e inoltre hanno un altro inconveniente al quale si sta cercando adesso di porre riparo, ed è quello che è difficile antagonizzarli nel caso si avesse bisogno di fare un intervento urgente. Quindi questo può essere un pochettino il limite di questa nuova terapia, che però, diciamo, soprattutto nell'anziano, è in grado di ridurre in maniera significativa l'occorrenza di ictus. Dottoressa Frigerio, intanto abbiamo Emilio da Monza e poi volevo chiederle di raccontarci se lei, dal suo osservatorio privilegiato, può dirci esattamente se e quanto ci prendiamo cura e in modo adeguato degli anziani e del loro cuore, perché spesso gli anziani sono pazienti complessi, soffrono di più patologie, quindi assumono terapie diverse e questa sicuramente è una condizione difficile da gestire per il medico, per gli stessi familiari e prima di tutto per il paziente. Ma andiamo a sentire Emilio, che ci chiama da Monza. Buongiorno. Sì, buongiorno. Emilio, buongiorno. Non è ancora andato in vacanza? No, non ancora, non ci andrò. Io le mie vacanze le faccio correndo tutto l'anno, facendo maratone, corse in montagna. Caspita. Mi diverto lì. Fa bene, Emilio. E quindi è veramente un atleta quasi, molto allenato. Diciamo che sono in sito fisico, sono un atleta a tutti gli effetti. Ecco. È 10 anni che corro. Ho iniziato un po' tardi, purtroppo. Posso chiedere a quanti anni hai iniziato, Emilio? 8 anni fa avevo 61 anni. 61 anni, grazie Emilio. Dottoressa Frigerio, Emilio, che cosa ci vuole raccontare quindi, però, la domanda? Corro in montagna, vado anche ad altezze particolari, 2006-2007, e io soffro di un'estrasistolia da 20 anni, 25, che però durante i miei esami che faccio periodicamente per correre, l'esame sportivo, sì, sotto sforzo questa estrasistole non si evidenzia. Dottoressa, non mi dà molto fastidio. Però c'è, dottoressa Frigerio, c'è, non dà fastidio. Emilio è allenato, è un Emilio vero allenato. Atleta. Complimenti prima di tutto, e in secondo luogo mi sembra che Emilio saggiamente sia anche controllato, perché dice che fa periodicamente degli esami, degli accertamenti. Allora, avere delle extrasistoli che aumentano sotto sforzo è un segno minaccioso. Avere delle extrasistoli che scompaiono durante l'attività fisica è una forma, diciamo, sicuramente più benigna di aritmie. In particolare, per stabilire se questa aritmia è davvero benigna, ci sono anche altri accertamenti che Emilio e quelli come lui possono fare, probabilmente questo signore li ha già fatti, un ecocardiogramma che veda se la struttura e la funzione del cuore di base sono normali, e anche un po' farsi raccontare la storia di famiglia, perché se in famiglia tutti sono invecchiati o sono deceduti per altre cause, diciamo che il rischio è basso. Se invece ci fosse una storia di decessi per causa cardiaca o causa non precisata, di morte improvvisa in età giovane, allora sarebbe da indagare più a fondo. Ma non credo che questa sia la situazione di questo signore molto attivo. Allora, dottoressa Frigerio, una domanda che arriva da Ennio via WhatsApp. La cardioaspirina, da prendere come prevenzione anche da chi non ha problemi di cuore, è una buona idea? Ma direi che non è necessario. Direi che se uno non ha proprio niente non si capisce perché debba prendere un farmaco. Io devo dire, da medico, sono contraria alle medicine prese per niente, e ritengo che non sia opportuno utilizzare dei farmaci se non c'è un'indicazione specifica. C'è stato un periodo in cui si pensava che un uso costante dell'aspirina potesse essere utile, però diciamo che questo è stato smentito dai fatti. Allora adesso noi ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, poi intanto saluto, parliamo degli anziani fragili ma dei servizi che sono messi a disposizione. In linea con noi Enzo Costa, che intanto inizia a salutare, presidente Hauser. Buongiorno dottor Costa. Buongiorno a voi. L'associazione è nata oltre 25 anni fa per dare un ruolo e valore agli anziani. È un'associazione che promuove l'invecchiamento attivo, la pratica della solidarietà e del volontariato. Anche questo fa bene al cuore. Ci sentiamo subito dopo le informazioni sul traffico. Cuore e denari. Abbiamo parlato di cuore in vacanze in estate, tanti progetti, vacanze, montagna, laghi, ma c'è anche l'altra estate, quella senza spiaggia, alberghi in quota, amici, passeggiate in montagna o al lago. E in questa puntata vogliamo occuparci anche degli anziani che rimarranno a casa nei mesi estivi, e fra queste ci sono tante persone fragili. Dottor Costa, su quali servizi possono contare gli anziani, soprattutto quelli che vivono da soli e non dispongono di una rete familiare su cui appoggiarsi? Diciamo subito che dopo tanti anni in cui ci siamo battuti perché l'emergenza estate per gli anziani fosse un'emergenza affrontabile in rete intendo dire da tutti, oggi noi abbiamo tantissimi comuni che mettono a disposizione proprio la rete dei volontari, dei servizi sociali del comune agli anziani, per cui i servizi iniziano con la costruzione di una relazione tra la persona e la struttura che offre i servizi. Una relazione si può costruire attraverso una chiamata al numero verde, oppure perché il comune è molto virtuoso e prende in carico le proprie fragilità, i propri anziani, e i servizi sono vari, vanno dal coinvolgimento in attività sociali per i più attivi, e quindi farli uscire da casa e farli incontrare con altre persone, alla compagnia a casa o telefonica per le persone che hanno difficoltà ad uscire, alla consegna dei pasti, delle medicine a domicilio, oppure all'accompagnamento per andare a fare la spesa, per una visita medica urgente. Si costruisce con l'anziano un punto di riferimento, che è la cosa più importante per una persona fragile, perché una persona fragile ha bisogno di riferimenti. Dottor Costa, l'aiuto agli anziani più soli e fragili e soprattutto il contrasto alla solitudine e anche il rischio di emarginazione sono un po' gli obiettivi, le principali attività di Hauser, che vedono anche impegnati tanti vostri volontari, tante strutture. Lo strumento principale è il filo d'argento col numero verde attivo tutto l'anno. Insomma, voi siete aperti per ferie, no? E quindi è bene tenere a mente il numero, memorizzarlo anche sul cellulare per ogni evenienza. Ricordiamo che è gratuito. Certo, il numero è lo... Diciamolo, ma lo scriviamo anche sulla pagina di Cuore Denari. Dottore, prego. Bene. 800... Il numero è l'800-995988. È un numero verde, è un numero gratuito, è un numero che è attivo tutto l'anno, dalle 8 del mattino alle 20, compresi festivi, compreso Natale, Pasqua, noi non ci dimentichiamo della fragilità degli anziani, mai. È un numero che ti mette immediatamente in contatto con la struttura Hauser più vicina al tuo indirizzo, che si prende carico dei tuoi bisogni. È un numero che è partito circa 15 anni fa e che rimane ancora l'unico numero verde dedicato agli anziani che funziona tutto l'anno. Riceve circa 1.400.000 chiamate in un anno, giusto per dare il senso del bisogno che c'è di avere dei punti di riferimento, ed è un numero che attiva proprio i servizi alla persona, che vanno dal trasporto sociale, l'accompagnamento ad una visita medica, come dicevo prima, alla semplice compagnia, oppure alla risoluzione di un problema che per una persona fragile diventa insormontabile, tipo non ho più le medicine, non ho niente da mangiare, noi forniamo pasti, forniamo tutto, arriviamo ad assistere con l'accompagnamento protetto più di 700.000 persone in un anno, e per la consegna pasti ne consegniamo più di 227.000. Allora, questi sono numeri di un'associazione di volontariato e sono numeri di un disagio sociale che, se guardiamo il sistema paese, è molto, ma molto, molto più amplificato. Dottoressa Frigerio, vuole fare un commento? a questi dati e a questo impegno dei volontari che rispondono ad un'esigenza forte e immagino in crescita? Beh, diciamo che in crescita probabilmente lo sarà, perché gli anziani e i grandi anziani, cioè gli ultra 85 anni, stanno aumentando come prevalenza nella nostra popolazione. È lodevole poi il fatto di farsi carico dei problemi della persona in generale, perché il servizio sanitario non sempre si riesce a far carico del problema complessivo della persona e forse in un certo senso non è nemmeno il suo compito, anche se l'intreccio tra sociale e sanitario è molto importante e questo per esempio è uno degli elementi che sono stati recepiti in Lombardia dalla recente riforma sanitaria. Devo dire che un altro aspetto importante è quello di pensare che la persona che ha dei disturbi, delle limitazioni su base medica o di natura cognitiva può aver bisogno non solo di assistenza medica ma anche di cose semplici come qualcuno che gli porti un pasto caldo, che è un bisogno, che può essere anche un bisogno di salute, è una prestazione certamente non di natura sanitaria, di natura sociale, e quindi riconoscere la necessità di integrare socialità e salute e benessere e anche, come dire, salute e vita sociale è molto importante. Complimenti. Dottor Costa, so che voi cercate anche volontari. Sì, come diceva prima lei, il fenomeno dell'assistenza degli anziani è un fenomeno che cammina come cammina il cambiamento demografico in questo paese, per cui c'è una richiesta che è sempre più alta. Noi abbiamo bisogno di volontari, vorremmo volontari anziani perché vogliamo impegnare le persone anziane che sono ancora attive, come sì, l'ascoltatore di prima che le pantere correva. Grigie, come le chiamate? Se tra una corsa e l'altra viene a fare il volontario da noi, lo facciamo correre anche noi. abbiamo bisogno davvero di volontari, abbiamo bisogno di persone che recuperino valori come quelli della solidarietà e della coesione sociale. Gli anziani non sono un problema, sono una conquista di civiltà, perché vivere più a lungo significa conquistarsi il diritto alla vita. Dobbiamo cercare di far vivere più a lungo meglio le persone che ci circondano. Allora, ringrazio Enzo Costa per essere stato con noi, l'impegno dei volontari Hauser, di tutta la rete, quindi ricordate, sul nostro sito metteremo il numero verde gratuito, attivo tutto l'anno dalle 8 alle 20 su tutto il territorio nazionale, 899 59 88. Ringrazio naturalmente la dottoressa Frigerio per essere stata con noi, per averci accompagnata in questo bel progetto che è arrivato al cuore dei nostri ascoltatori, molti ci hanno scritto per raccontarci anche le loro esperienze, per richiedere un consiglio, un aiuto. Dottoressa Frigerio, adesso Cuore Denari chiude per ferie ad agosto ma riprende a settembre, ma i nostri ascoltatori possono comunque sempre avere a disposizione i medici della Fondazione del De Gasperis, con scrivete la posta del cuore per avere tutte le informazioni. Dottoressa Frigerio, grazie. Grazie a lei e devo dire un grazie agli ascoltatori a Radio 24, un grazie speciale a te, anzi Nicoletta Carbone, perché ormai abbiamo imparato a darci del tu, potremo farlo, e credo che la qualità del tuo lavoro sia stata importante anche per far passare il messaggio ai nostri ascoltatori. Vi invito tutti a visitare il sito I Colori del Cuore e della Fondazione De Gasperis per avere altre informazioni e per mettersi in contatto eventualmente con noi. Grazie. Grazie, grazie. Adesso noi passiamo all'ultima parte della trasmissione. Andiamo. Del mio castello sono la regina ed il mio regno è la cucina. E anche oggi, prima di salutarci, ci trasferiamo in cucina per la nostra rubrica che abbiamo voluto chiamare Ricette Randagie. Ricette pensate da Andrea Ribaldone, che salutiamo subito. Ciao Andrea. Ciao Nico, ciao a tutti, buongiorno. Il nostro cuoco stellato dei due buoi di Alessandria, che ha pensato per noi delle ricette ideate proprio per chi ha poca dimestichezza coi fornelli, è a casa da solo, ha il frigorifero vuoto, non vuole fare la spesa settimanale perché poi magari ha paura di buttare le cose, soprattutto a poco tempo. Andrea, allora, ieri effetti speciali con pappa al pomodoro, una ricetta molto richiesta che abbiamo naturalmente messo sulle pagine di Cuore Denari, con l'uovo un po' morbido, come si chiama l'uovo che ci hai fatto fare, barzotto? Certo, l'uovo morbido. L'uovo morbido. Fuori è formato, all'interno è morbidissimo. Perfetto. Oggi facciamo due ricette veramente randaggi proprio. Il nome è piaciuto. Poteva essere più azzeccato. Allora, sicuramente avete nel frigo un po' di latte che avanza. Mm-hmm. Allora, cosa facciamo? Una piccola cagliata. Mettiamo il latte a sobbollire leggermente, aggiungiamo o un po' di succo di limone, ma un cucchiaino, non di più, o un pochino di aceto di vino bianco che c'è sempre in casa. Mm. Vedrete che piano piano bollendo si caglia. Filtrate, raccogliete con un colino solo la parte sopra, la parte cagliata, lo fate leggermente. Che scusa, è quella solida? Scusami Andrea, esatto, è quella solida. Lo lasciate raffreddare e lo potete mangiare con un pochino di pomodoro tagliato, due verdure che avete in casa, un'insalatina fresca. È un formaggio fresco veramente buono, senza problemi e velocissimo da fare, come vi ho detto. La seconda ricetta, che oggi è veramente particolare, anche questa super randagia, è: svuotate tutta la pasta che avete, la pasta mista, spesso se ne avanza un pochino, non basta, non si sicura, quindi pasta e poi mista. Soprattutto si formano, anche nella pasta si formano quelle farfalline o solo sono del riso? Di solito più nel riso, però a volte però nella dispensa volano anche sulla pasta. Però ecco, quindi tutta la pasta che avete, la mattina, anche prima di andare via in ufficio se ancora lavorate, la mettete a bagno in acqua fredda, quindi tanta acqua fredda, la pasta mista dentro a bagno. La lasciate così finché ritornate, perché si reidrata, diventerà morbida, ma all'interno rimane ancora croccante. Quando tornate, acqua che bolle, un minuto e mezzo di cottura, la pasta è pronta, quindi velocissima. No, fantastico! Sì, sì, è veramente veloce, questo è proprio per chi non ha voglia proprio di accendere la fiamma, cucinare, quindi velocissima. Un minuto e mezzo di cottura, siete a posto e poi conditela come più vi piace, anche fosse un goccio d'olio, un pizzico di sale e un po' di parmigiano buono va benissimo. Quindi Andrea, un minuto e mezzo, quando l'acqua bolle, caliamo la pasta, misuriamo, un minuto e mezzo si scola. Perfetto, bravissima. Volendo fredda oppure tiepida va bene. Andrea, possiamo salutarci per oggi, quindi? Grazie, ci sentiamo domani sempre con le nostre ricette randagie. Vi aspettiamo, ti aspettiamo. Ciao Andrea. Ciao Nico, buona giornata. Ciao, ciao, ciao. E per oggi è tutto. Allora, noi vi aspettiamo come sempre. Parlo sempre al plurale perché sono abituata a stare con Deborah, non per usare il plurale maiestatis. Vi aspetto domani alle 10:30 per una nuova puntata di Cuore Denari.